Bosse tranquille. M'diakoui bindou la madame yad. What the? Ya suturu nati, kohevi surto osoyi. Abo minaji, jita kene bunombe landeri halpi. Heo bimijaki dunu kasi sahale besga mkoponi. Tani berna mpasa sota vinomba miwela ni madaro yesa mkala. Konjakto dasa uchite ala subaru otala. Bambro, adunu wankwe kase itezwe. Si ha giungo di ciclo, tocco inspirazione. Si ha mobile che lo rap. Con le disabi, ande sanel hamdu. Con job di tempere hanki. Ma gli di kilo maha. E nira dum wonki. Sonello, jodi mi vuoi. Tawat wonko niji. Aprix so tardi con salad rentin di keri. Sagata, sruta ki tubi. Tawku huchita ne kabri. Nedo comere. Yo nunu jomra do tagri. Mujajit vesngo mum kowaze. Mija de jango. Basal fusi perde. Wenhen nananja hane membo. Saina do yam ko kelli faro. Ko salad ya warende. Wanda lam do kale. Fatan moulin de warende. Ya. Poplo ni umo tar ko lamu hubni perde de. Aduno seni yodi. Woto halandum ne wumbebe. Sanani ngum te wodi. Tawat kombi ye tima. Kumnu perde nene babutan. Wow, yeah, suturu nati, kohevi suto osoyi. Apo minaji, jita kene munombe landeri halpi. Heo bimijaki tunu kasi sahale besga mkoponi. Tani berna mpasa sota vinomba miwela ni madaro yesa mkala. Konjakto dasa uchite ala subaru otala. Bambro, adunu mwonkwe kase itezwei. So ndeje ndeje heavy tower pon gummi de plas mum ade yufne becce yejitu ganale woni plas mum say hareji nyene fof fam adunu won koy gaz so gitema wettim gondi ben swel type won koy fazze inde alla wade bomba gesi please won koy laide do sa wel tima mayi oye nana wayna kala na muñ heewe noppi ma bam tar ko ko soyna tinno yaru set sere human pinna yagal do wana faso woto ardi bandi yagal musba tolno to gele aduna kalkoda Astaghfirullah, astaghfirullah. Yo wade demgal kalto keda. Lamdo ko jomirado ade alano yanirta. So yi hande aden kabe ku yit bam tare para pina. De dindo mawdo ko tawa fina. Nedo tayde woni buktino fitina. Anana do woni bindolam hade am yaade. Ya suturu nati ko hewi suto so yi abo minaji. Jita kene muno melanderi halpi. Heo bimi jaki dunu kasi sahale besga mkoponi. Tani berna mpasa sota vinomba miwela ni madaro yesa mkala. Konjakto dasa uchite ala subaru otala. Bambro, adunu wonkwe kase itezwe. Mentuel taik wonkwe kase. So yi handa da hale. Famka ligiro ndere kale sada male. Fam ka tigir si yalla wadi mu jom hodere hunde fof ma wiye ka nyawdo ha mayi demgal kanyo ma yiwe do ha woni jom kongol tinno won taydo sukabe na nyambe ma wadde pro won pewdo adidi nibiri kulus won jurni todo ande julo wone ma wadde won jurmo todo mi da to pa da to jomi rad ka dutti todo so tawi do ken rimbe do alla ken machube wana gite tan jiat don ken machube nage fudi niber maji andu nyaloma keso dawi kalande mojere fawi tawat ko ko jamo sakki ha gonga ardiname aduna rapam nati wode berde det mi joji gotum ruham heba fodde gol jungo burda dole ko den welata fodde suturu nati ko hewi suto so yi ha bombi nati jita kenne muno bela deri halpi heo bimi jaki dunu kasa ale besga mkoponi tani berna mpasa so tabi namba mi wela ni madaro yesa mkala konjakto dasa uchite ala subaru otala bambro adunu wonkwe kase itezwe mentuel taik wonkwe pase suturu nati ko hewi suto so yi ha bombi nati jita kenne muno bela deri halpi heo bimi jaki dunu kasa ale besga mkoponi tani berna mpasa so tabi namba mi wela ni madaro yesa mkala konjakto dasa uchite ala subaru otala bambro adunu wonkwe kase itezwe mentuel taik wonkwe pase I'm an alpha, after MC, but strong kid, I'm yard. Let your tear, let your fail. Anana, God says it's time. Hey, Buonasera Radio Antidoto, buonasera. Sono il vostro Vittor Cino e vengo dal gancio di Yara, che è stata gentilissima quest'oggi a lasciarmi il suo slot. E abbiamo appena sentito Roy Hams con So Yay. E questa puntata è molto speciale, perché è speciale, non molto speciale, nel senso speciale già è speciale di suo, perché ci sarà un collegamento col Senegal che faremo esattamente in questo momento, perché ci stanno aspettando Damiano con Manuela per parlare di ciò che stanno facendo in terra straniera, non come due colonialisti ma come due filantropi. Andiamo, vediamo. Vediamo se parte la chiamata. Start call. Ok, Damiano c'è. Damiano risponderà. Vittorio, ci siamo. Buonasera, dottore. Buonasera. Ciao, Vittorio. Piacere. Ciao, Manuela. Piacere. Piacere mio. Piacere nostro. Ciao, Vittorio. Come vai? Ciao, amico. Questo è Amidu. C'è anche Amidu con noi. Ciao, Amidu. Hello, Amidu. How are you? Tutto bene, tutto a posto. Come sta va, Amidu? Oui, ça va très bien. E tu? E la famiglia? Bien, bien, bien. Come sta va? Come va la vita là in italiano? Bene, abbastanza bene, abbastanza bene. Grazie. Merci beaucoup. On a écouté le son, c'est super. Sì, e Amidu che ha scelto la canzone. Come? Non si è sentito bene. È Amidu che ci ha fatto suggerire la canzone che avete appena messo. Bellissima, super top, come diciamo noi qua a Messina. Oui, aujourd'hui tu vas vivre beaucoup d'aim, comme ça, pas comme ça, c'est comme ça aujourd'hui. Le son è tellement super. Dice che la canzone è super bella, quindi avrai un sacco di ascolti ascoltatori soddisfatti. Ma questo... Questo con voi al microfono sempre sicuramente succederà. Manuela, raccontateci un po' intanto che sta succedendo là da voi, perché so che non siete in buone acque. E poi... Ah, diciamo che sarebbe molto bello sapere cosa sta succedendo, questo è il primo punto, ecco. E poi, perché siete proprio in Senegal? Allora, bella domanda anche questa, perché siamo proprio in Senegal? Allora, se vuoi te la faccio long story short, come si dice in inglese, provo a essere il più rapida possibile. Avevo deciso di fare un video da sola, poi da sola non la sentivo, ho detto va bene, approfittiamone, visto che ho preso tanto dai a tutti i viaggi che ho fatto nella mia vita, ho pensato magari è il momento di ridare qualcosa, okay. Facciamo un viaggio di volontariato, così sarò un po' da sola ma anche con gente che non conosco. Okay. Cercavo un po' in tutto il mondo e alla fine probabilmente il Senegal ha scelto me. E quindi mi sono poi trovata qui alle varie associazioni che avevo contattato, questa era quella che più mi aveva convinto per vari motivi, e quindi qua sono arrivata un anno e mezzo fa e poi ogni sei mesi sono tornata. Vabbè, ma ormai diciamo, è casa. Diciamo che il Senegal è anche una di quelle nazioni che ha più bisogno di noi, cioè non è soltanto che il Senegal ha scelto te, ma è proprio una questione di dare e avere. Assolutamente sì, ma dopo aver fatto questa esperienza di volontariato ormai tre volte, ti assicuro che alla fine è comunque più quello che ricevi che quello che dai. A voglia. E questo te lo posso assicurare. Quanto vi fermate questa volta? Ah, questa volta 2 settimane. Ok. A novembre invece col gruppo precedente ero stata 1 mese e ad aprile di nuovo 2 settimane. Io in realtà sono qua in totale 18 giorni, però sì, col gruppo tutti insieme 2 settimane. In particolare di cosa vi occupate nella vostra missione? Allora, diciamo che il focus principale è un po' sostenere e andare a migliorare le condizioni dei talibè, che è una realtà senegalese poco conosciuta, ma gravissima, di violazione dei diritti dei bambini, dei ragazzi, minorenni, diciamo. Ok. Sono praticamente bambini 99% maschi che vengono tolti, mandati dalle famiglie a una guida che dovrebbe essere una guida spirituale. Anche qui te la faccio più corta di quanto meriterebbe. No, ma però. Sentiti libera. sono bambini che quindi crescono senza la famiglia in delle case occupate che dovrebbero essere delle scuole nelle quali loro imparano il Corano e in teoria anche dei mestieri, ma questo succede sempre molto più di rado negli ultimi anni, e quindi sono bambini che vengono mandati in strada a mendicare dalla mattina alla sera. Nell'altra parte del tempo sono invece in queste case che si chiamano dare e pregano, imparano a memoria il Corano e lo recitano 4-5 volte al giorno. Ok. E quindi non hanno nessun tipo di assistenza, cioè la persona che li tiene nelle loro, in queste dare, che si chiama il marabù, dovrebbe occuparsi di loro, ma in realtà sono loro stessi a occuparsi di loro in maniera totalmente autonoma, dal cercarsi il cibo al passare il tempo, e non hanno assistenza sanitaria, non hanno granché affetto, non hanno i documenti, vengono spesso chiamati bambini invisibili. E una volta usciti da queste dare, dove passano tutta la loro vita, di solito dai 4-5 anni fino ai 18, una volta usciti non hanno un lavoro, probabilmente non sanno il francese, quasi nessuno, e quindi si trovano in situazioni di super difficoltà. E voi come agite? Quindi noi veniamo qui e cerchiamo un po' di, tramite l'associazione, di dargli un posto intanto dove mangiare, okay. Dove lavarsi, perché in queste case dove stanno non c'è elettricità, non c'è acqua, non c'è nulla. Gli diamo la possibilità di essere medicati, per quanto siano comunque medicazioni molto superficiali, ovviamente, quindi nulla di, non ci sono medici specializzati, ecco. Okay. E soprattutto un posto dove essere bambini e dove divertirsi, perché fanno una vita che non conosce la vera essenza dell'adolescenza e dell'infanzia, ahimè. E in questo centro invece possono giocare, stare insieme ed essere un po' coccolati, e soprattutto essere visti e riconosciuti come esseri umani e non solo come bambini e adolescenti che portano soldi e eseguono gli ordini che gli vengono dati. Per quanto riguarda la parte successiva della vita, che è anche importante, diciamo, la post-adolescenza, il trovarsi un lavoro, trovare una posizione nella società, voi gli date anche una mano? No, al momento no, però è una cosa che a me piacerebbe proporre all'associazione, cioè vorrei che incrementassero. Ne parlavo giusto l'altro giorno con i ragazzi, sabato se riusciamo andiamo a Dakar a vedere un'associazione che fa questo, si occupa dei talibè e dei ragazzi comunque di strada in difficoltà, insomma. Ma durante il percorso, quindi durante le varie giornate, il percorso degli anni in cui loro stanno presso questa struttura, vengono seguiti e istruiti a fare lavori che sono come il meccanico, l'elettricista, il parrucchiere, piuttosto che sartoria. Ed è una cosa che secondo me nella nostra associazione manca e sarebbe molto buono integrare. Poi qui abbiamo Amidou, il ragazzo con cui hai parlato prima, che è un talibè, ma una volta finito il percorso uscito dalla Dara è diventato autista per il centro. Grande. Quindi ha preso la patente, sono stati fatti i documenti e quindi lui adesso ha un lavoro. Grande. Però appunto è uno su centinaia, il posto è uno e l'ha preso lui. Vuole salutare i suoi amici senegalesi in Italia e gli italiani che lo conoscono. Sono contento, dalla canzone che ti ha fatto. Dice ancora grazie per aver messo la sua canzone. No, ma io direi una cosa. Ora mettiamo Gaga Blinde, Nema Wow. E ci sentiamo tra un attimo. Tu che dici, Manuela? Ok. Perfetto, direi che è perfetto. Arrivo. Ci sentiamo. A tra poco. Gaga Blinde e Nema Wow. Fatto, grazie mille. Merci beaucoup e buon continuation. A tra poco, non ce ne andiamo. Ciao. Ciao. Baricalana. Manara Deximo Manhana Birek Lalo Manara Deximo. Hey baby, Sherry Susava and Nakawa. Hey baby, Sherry Susava, comment tu vas? Hale Bureta Ne Samokol Bidem Melnilem. sur Khaled Boubou Doré. Chakas, chakas, man bang na la jël si nga sey si si man ne ma waw nga jox ma sa loxo ñu and di fly ne ma waw so xale bi bu retane sama xol bi demel ni lem me xale bi bu doxé chakos chakos man bang na la jël si nga sey si si man ne ma waw nga jox ma sa loxo ñu and di fly ne ma waw xale bi bu retane sama xol bi demel ni lam so xale bi bu doxé chakos chakos bu ñu ané di dox di waxtaan sama xol bi neex bu ñi waxtaan di taw rek muy chaan sama xol bi feex néna ko bëgg na la est ce que sax bëgg nga mu néma love na la mais est ce que dëgg la baby please, baby kiss, baby girl my wish, baby girl my wish, baby girl my beast, baby you're lovely. So every day and every night, baby my sunshine. You are my life, you are my wife, baby girl my wine. I call it you for a dane, someone call for them and lila. I call it you for doge. Chokos, chokos, chokos. Man bang na la jël si nga sey si si man ne ma waw nga jox ma sa loxo ñu and di fly ne ma waw xale bi bu retane sama xol bi demel ni lem so xale bi bu doxé chakas chakas bindo man bang na la jël si nga sey si si man ne ma waw nga jox ma sa loxo ñu and di fly ne ma waw. Gel yi ma top bari nañ me lol du dara way bëgg na la way buñu xulo bëgguma la bay neena goorum jotta xam ma len gëna jantal buñ wété tamit ci neeg ma len gëna bantal dina ma fon way ciokotan ma way leg leg mu dompat mu teuf dombat mu ré buisu ma rek songat dinaal ma dogat marikal fini dogat tagal ma sampat wiss ci salad def ci tomate jus d'orange dal ma rek nga xamné amul jambar man bëgg na la jël si nga sey si si man né ma waw nga jox ma sa loxo ñu and di fly ne ma waw so xale bi bu retane sama xol bi demel ni la me xale bi bu doxé chakos chakos man bang na la jël si nga sey si si man ne ma waw nga jox ma sa loxo ñu and di fly ne ma waw me xale bi bu retane sama xol bi demel ni la so xale bi bu doxé chakas chakas dinda. Oh bébé, tu tax ma love la, je t'aime bébé. Allo you, c'est mignon. Toi et moi c'est pour la vie. Arrête boy, arrête. Man aké, on pique à peine. Oh. Vas-y, digitale. Non. Digitale. Non. Je t'aime. Non. Dis-moi, je t'aime. Non. Donne-moi un faible. Le bug, le bug. Faible. Le bug. Non. Non. Je t'aime. Je t'aime. Nema Wow su Radio Antidoto, siamo in diretta, ci sta chiamando Damiano, missed call, vabbè lo richiamiamo subito, subito, subito, why not, why not? Buonasera, buonasera siamo Damiano. Eccoci. Buonasera Manuela. Ciao. E io ora vorrei parlare un po' con Damiano perché mi sento un po' di parte in questa cosa, nel senso lo conosco da un po' e mi interessa a quello che fa. Damiano, tu sei partito così alla cieca, possiamo dire. E praticamente sì. Come pensi di strutturare il tuo lavoro? Intanto che lavoro fai e che lavoro farai sul posto? E come pensi di strutturarlo? Allora, quello che faremo qui sarà appunto cercare di migliorare questa situazione che ti ha spiegato prima Manuela. E ad esempio domani, già di prima mattina, saremo in struttura a preparare la colazione per tutti i bimbi e tutto questo. E nel frattempo cercare appunto di mediare per vedere, c'è sempre qualcosa da fare, c'è molto più da prendere ci che credo, da dare. Assolutamente su questo sono assolutamente d'accordo con Manuela. E cercheremo di fare questo. Tra l'altro, momento Marchetta. È il nostro momento Marchetta. Tra l'altro, ovviamente, se vorrete saperne di più, io e Manuela gireremo un documentario. E appunto su questa, su tutta la situazione dei talibè e cose varie, quindi al più presto sarà disponibile un reportage meraviglioso, mi sento di dirlo, anche, sì, anche se non abbiamo ancora girato una scena, che sia una, però assolutamente. Io ero interessato anche alla domanda che vi ho fatto su la vita post-adolescenziale dei ragazzi, perché ho studiato con mani tese che esiste un accesso al credito molto forte, al microcredito molto forte in Africa, nei paesi in via di sviluppo, e volevo sapere se voi potete appoggiarvi a queste altre tipi di finanziarie, virgolettato, perché non è chiaro che non sono finanziarie come in Italia, come nel paese del primo mondo, virgolettato anch'esso. Allora, guarda, conta che io con l'associazione collaboro come volontaria, a prescindere poi da quale sia il mio ruolo quando sono qua. Quello che so che fa l'associazione è seguirli fino a che loro sono nelle Dara. Una volta usciti, ahimè, spesso se ne perde un po' traccia. Quello però che fanno, una cosa che ho scoperto è che per esempio i ragazzi talibè durante gli anni che passano nella Dara hanno delle, si chiamano proprio boutique amiche, che servono, gli fanno da banca praticamente, quindi i soldi che riescono a tenersi in tasca piuttosto che darli al marabù, li portano in queste boutique. Invece che darli al marabù, li portano in queste boutique e li guardano, se li fanno tenere da parte. Una volta raggiunta una somma che per loro può essere più o meno sufficiente per prendere la patente piuttosto che cose così, li investono per uscire dalle Dara e trovarsi un lavoretto, quindi magari un affitto di una stanza in condivisione nel frattempo che lavorano magari in una panetteria, per dire. Molto bello. Questo l'ho scoperto l'anno scorso, non lo sapevo, e tra l'altro si basa anche su un sistema di fiducia incredibile, perché tu dai dei soldi in una bustina a un negozio senza avere nessuna tracciabilità della questione, quindi anche molto delicato, però funziona così. Io conosco altri Gran Talibè, per esempio, che sono quelli appunto che hanno superato dai 15-16 anni, vengono chiamati Gran Talibè, sì. Che sono usciti dalla Dara, che sono amici di Amidou che ho conosciuto in questi anni, e ci siamo trovati più volte la sera a guardare le partite di calcio nella stanza tutti insieme, e uno di questi fa per esempio il sarto, un altro ha una boutique dove lavora e vende appunto spezie, pane, riso, un altro fa l'autista, quindi diciamo che quelli che sono riusciti a mettersi un po' di soldi da parte hanno comunque una speranza di fare qualcosa, però qua si parla anche della realtà in cui collaboriamo noi, è una realtà di villaggio molto piccola, okay. Sicuramente ben peggio e molto più grave la situazione in città grosse come Dakar. Lì rischi che una volta uscito dalla Dara sei sperso e solo, è mangiato dalla città, finire dalla nelle mani della microcriminalità, certo. Questo sicuramente, soprattutto non avendo il documento tu non puoi pretendere nulla, e questo fa gioco forte su chi invece può pensare di approfittarne di te, quindi questa è la grossa problematica, secondo me, non avere un documento. E potete raccontarmi una storia breve, short long story, come hai poc'anzi detto, di qualcosa che vi è successo in questo viaggio già da ora, così da tenere un cronoprogramma, una cronostoria, se poi volessimo, per esempio, risentirci più avanti? Allora, tu ovviamente il mio numero ce l'hai e lo sai, Vittorio, inutile che te lo dico. Lo so a memoria. Assolutamente sì. Bello. Storia che ti posso raccontare, ad esempio quello che ci è successo ora. Possiamo partire da questo. Noi siamo a bordo strada da circa un'oretta e mezzo, perché ci si è fermata la macchina. Siamo scesi, abbiamo il microfono. Dobbiamo scendere perché devono provare a spostare la macchina. Aspetta. A proposito, aspetta. Allora. Andate tranquilli. Ci sei, Vitto? Sì. Allora, praticamente siamo scesi, abbiamo aperto il cofano, ti giuro, tempo di aprire il cofano, si è fermata una persona a bordo strada, ci ha chiesto se avessimo bisogno di aiuto e ha tolto la batteria dalla sua macchina per vedere se era questo il problema. Non era questo il problema, è andato a chiamare un meccanico che è arrivato in 10-15 minuti e ora abbiamo 8 ragazzi che stanno cercando di far ripartire la macchina. Ogni macchina che passava, praticamente vedendoci fermi a bordo strada, si fermava per vedere se era possibile un aiuto, darci una mano, insomma. Esattamente il contrario di Messina, se vi può consolare. In ogni caso, Torino, in ogni caso, ci lasciamo con un nodo al fazzoletto, nel senso che ci risentiremo nelle sere successive. Chissà se saremo tornati in ostello. Sì, speriamo di sì, scusa. Io ti aggiorno comunque, radio a parte, io ti aggiorno. Vabbè, se volete fare un check di rientro quando ripartite, se sono ancora in diretta, siete i benvenuti. Nel frattempo ci ascoltiamo un altro pezzo, ci ascoltiamo Soviet Dream e lo dedichiamo a Damiano e Manuela, con Addolorata, De Martino, Gli Apostoli e Bellinetti, che è un pezzo che diciamo abbiamo scoperto da poco, ma siamo molto legati io e Damiano. Giusto? Tanto amore, Vitto. Ciao ragazzi, ci sentiamo dopo. Buona serata, grazie, ciao. Ciao Vitto. Ciao, ciao. Allora ci sentiamo Soviet Dream con De Martino, Apostoli, Bellinetti e Addolorata. Oh yes! Ті минути чеський корабль «Восток» завершав свій політ з першим чоловіком-космонавтом Юрієм Олексійовичем Гагаріном над нашою планетою. Anche se non lavoro, tanto spero che mi mantengano loro. Da borghese a proletario, cambio di ruolo. Tu sei scemo anche con la corona d'alloro. Fanculo, il sogno americano. Io sogno la rivoluzione francese. Con la gente che decapita chiunque guadagni più di 10.000 euro al mese. No, non è così. Non sono cattivo come i russi nei film. Allora lei mi dice abbracciami e dimmi che mi ami tantissimo. Io le sussurro all'orecchio, Israele è uno stato illegittimo. Fanculo l'America, sogno di vivere in Unione Sovietica. Nana, dove sono tutti tristi, mica come noi che invidiamo i ricchi. No, no. Nella testa un'armata rossa, freddo nelle ossa, non mi fare la voce grossa, che ti butto giù come Kasparov alla terza mossa, tutte le strade portano a Mosca. Solo vodka nel frigo, gioco a freccette con le foto della Digos. Poi, per dormire la sera, conto i ricchi che vanno in Siberia. Tutti vogliono fare le rockstar, io ci ho provato ma il capitale mi costa. Ho il poster di Stalin fuori dalla porta, tu se non lavori poi ti senti in colpa. Sotto l'albero da piccolo una P38, a scuola e crocifisso messo capovolto. Addolorata organizzata perché ha letto Lenin, la mia pasta preferita bro gli strozza preti. Maro come so. Fanculo la merda. Sulla luna, Kubrick, mi vaccino con i russi, Sputnik, nel mio sogno siamo poeri, tutti, ascolti chi non mica Bowie, Nana, Ivan Drago, batterò chi, chiusi i giochi, il mio mito Vito Re nelle carte Modiano, doppio turno, Stacanoviano. Fanculo l'America, sogno di vivere in Unione Sovietica, nana, dove sono tutti tristi, mica come noi che invidiamo i ricchi, no no. Fanculo l'America, sogno di vivere in Unione Sovietica, nana, dove sono tutti tristi, mica come noi che invidiamo i ricchi, no no. Между землей и космическим кораблем была установлена двухсторонняя радиосвязь. Товарищ Гагарин. Буонасера, амиши, буонасера. Sono ripartiti i ragazzi, si è aggiustata la macchina, ma però dopo pochi metri si è rirotta. Non si sa come finirà stasera. Noi gli auguriamo ogni bene ai Chicos de Senegal. E questi erano Addolorata, De Martino, Apostoli e Bellinetti, Soviet Dream, veramente una canzone molto ironica, molto divertente, ma anche reale. E al contempo vi posso dire che con Damiano abbiamo fatto diverse improvvisate anche su Radio Antidoto, e abbiamo fatto la manifestazione di Riace per Mimmo Lucano, abbiamo fatto la manifestazione di Siracusa per la Diciotti, abbiamo fatto altre manifestazioni, comunque ci siamo ritrovati in radio a Radio Street al tempo in cui Radio Street ancora spingeva, e poi abbiamo stretto il rapporto, diciamo così, andando contro l'autorità prestabilita, il che ci è piaciuto molto e continua a piacerci molto. Chiaramente il viaggio di Damiano Emanuela è un viaggio molto importante, perché ci ricorda, ci rapporta con un continente che abbiamo sfruttato per anni, per decenni, per secoli, con tutte le nostre forze, e ora dobbiamo, è il momento di ricambiare, dobbiamo dare noi a loro non solo aiuto ad avere qualcosa in più di ciò che hanno, ma dobbiamo renderli veramente fratelli come siamo su questa terra. E quindi come fratelli ci ascoltiamo Brushy One String, Boom Bam Dang, perché ogni città ha un ghetto. All over the world is like a ghetto, poor people say so. Boom, bang, ding, get to you, sir, dying. Chirag, I'm off and singing. Boom, bang, ding, get to you, sir, crying. I hear the world, I sing. Boom, bang, ding, get to you, sir, dying. I'm singing. Boom, bang, ding, get to you, sir, crying. Oh, mama, they had no mercy on the poor. Get the youths need to take care some more. Yes, the mothers and the fathers are poor. We same one day lock on the door. When ragamuffin singing boom, bang, ding, get the youths are dying. I hear the world I sing boom, bang, ding, get the youths are crying. I hear my mama singing boom, bang, ding, get the youths are dying. I'm singing boom, bang, ding, get the youths are crying. Watch this, you got some man a go round a call himself big man. A them a issue the guns and the bayonets and bomb. Youth and youth them so foolish, them can't overstand. They must not take the guns and the bayonets and bomb. Kill them brothers and them sisters, fathers and mom. Then a Mr. Big Man come back with the gun and the bomb. Well, who know the same time them get a sentence to hang. That's why in the bush the one string up is sing this a song, yeah man. Boom, bang ding. Get your user tag in. I hear the world I sing boom bang ding. Get your user crying. I hear my mama sing boom bang ding. Get your user dying again. I'm singing boom bang ding. Get your user crying. Right? You got some man and go round and call themself big man. And them he shoot the guns and the bayonets and bam. Youths and youths them so foolish, them can't overstand. They must not take the guns nor the bayonets and bam. Kill them brothers and them fathers, sisters and mom. Yeah, Mr. Big Man come back feed the gun and the bam. Well, who know that same time them get a sentence to hang. That's why in the bush the one swing off a sing. And this a song, yeah, man. Boom, bang, ding. Get your youth, sir, dying. I hear the world, I sing. Boom, bang, ding. Get your youth, sir, crying. I hear the people singing. Boom, bang, ding. Get your youth, sir, dying. Them singing. Boom, bang, ding. Get your youth, sir, crying. Right. Brushy One String, uscito al mainstream con Chicken in the Corn and the Corn Gang Grow Mama. Hai visto, si mette a ridere pure lui. E sono andato a cercare un po' di Talibè su Google e sui motori di ricerca, anzi. E ho trovato anche come la pratica dei bambini talibè sia diffusa non solo in Senegal ma anche in Guinea-Bissau, Gambia e Guinea Conakry. Tra l'altro la Guinea-Bissau è stata una delle mete di Mani Tese, ONG per cui ho lavorato per anni e che continuo a frequentare, continuo a seguire le loro lezioni. E sul sito di Mani Tese si afferma: dinanzi alla precarietà dell'insegnamento che connota la Guinea-Bissau in un contesto di forte povertà delle comunità rurali, molte famiglie lasciano partire i propri figli con la speranza di assicurargli una migliore educazione religiosa all'estero. Tuttavia, le famiglie sono ignare del vero scopo del viaggio e condizioni di vita in cui verseranno i minori una volta partiti. Giunti nel paese di destinazione, i bambini di età compresa tra i 5 e i 15 anni vengono infatti lasciati a mendicare nelle strade da sottoposti maestri coranici, i marabù, che pretendono giornalmente una somma di denaro. Mangiano poco e male. Spesso sono solo attraverso la carità che ricevono delle strade. Indossano stracci sporchi, logori e dormono sul marciapiedi. Inoltre, quando non riescono a consegnare alla fine di una lunga giornata di mendicanza la somma di richiesta, vengono picchiati e abusati. E chiaramente Mani Tese è da sempre al fianco di queste realtà nel senso buono, nel senso che cerca di strutturare un passaggio contrario, un passaggio inverso a ciò che succede. Però non sempre è facile, come mi è venuto un lapsus freudiano in piena regola. E chiaramente ci sono tanti modi per aiutare anche a distanza, ma questa è un'altra storia. Ognuno sa nel suo cuore cosa deve fare, anche se partire come hanno fatto Manuela e Damiano è il miglior modo per stare vicino a queste persone, perché la solidarietà che avviene a stretto contatto, face to face, vis-à-vis, è il modo migliore per tenere fuori questi ragazzi. E poi abbiamo fatto pure una lezione sul microcredito con Mani Tese su questa parte dell'Africa e è stata molto interessante, ma ve ne parlerò dopo aver sentito la canzone di Mudimbi, Il Mago. Ci c'è chi mi chiede: Mudimbi, come stai? Se rispondo tutto bene, poi mi chiede come mai. La gente guarda male se non sei pieno di guai. Meglio dire son vegano e sto anche in mano agli usurai. Faccio ciò che posso, non vivo a Dubai. Ho un conto in banca all'osso che nemmeno i macellai. Vivo la realtà senza mentirmi mai. La mia dolce metà sembra la copia di un bonsai. La mia vita va che è una favola là. Non c'è niente che mi preoccupa pa. Risolvo ciò che c'è da risolvere re. E compro una vocale per rispondere. Va come va, va come va, come va. Va bene anche se male. Va come va, va come va, come va. Il trucco è farla andare. Bevo il bicchiere mezzo pieno finché mi ubriaco. E poi svanisco in un sorriso. Come fa il mago? Il mago, voilà. Il mago, il mago. A complicare siamo tutti esperti. A essere felici siamo tutti incerti. La verità sta tra due concetti. Finché la barca va e orietta aperti. Quindi sto sereno, navigo tra le bollette. Rischio pure le manette, canto queste canzonette. Evito chi si permette anche di mettermi alle strette. Vuole pure le mie chiappe, le pretende fatti a fette. Mi godo la vita come un bimbo una matita. Come Rambo con un mitra, come Cita una cichita. Vincerò questa partita, ci scommetto la colita. La strada va in salita ma non sento la fatica. Perché la mia vita va che è una favola là. Non c'è niente che mi preoccupa pa. Risolvo ciò che c'è da risolvere re. E compro una vocale per rispondere. Va come va, va come va, come va. Va bene anche se male. Va come va, va come va, come va. Il trucco è farla andare. Bevo il bicchiere mezzo pieno finché mi ubriaco. E poi svanisco in un sorriso. Come fa il mago? La mia infanzia è stata dura come tante, senza padre con il pieno di domande. Nonostante questo è andato alla grande, ringrazio mia madre per le sue parole sante. Figlio mio, la vita è dura, lo confesso, proverò a metterti in ginocchio troppo spesso. Tu sorridi lo stesso, magari domani ci svegliamo tutte e due sott'anci presso. Va come va, va come va, come va. Va bene anche se male. Va come va, va come va, come va. Il mago, voilà. Il mago, c'est moi. Le magician, il mago, il prestigiatore e Mudimbi in questo caso. Un gran bel pezzo. Non il mago di Oz che conosciamo molto bene, quel gran sordido che non è altro. Comunque no, non è vero, sto scherzando. Ciao mago, sei bellissimo. Nel contesto del traffico dei minori che interessa la subregione dell'Africa occidentale, la Guinea-Bissau rappresenta un paese di origine dei flussi, con predominanza del fenomeno delle regioni di Gabù e Bafata, connotate dalla forza presenza di comunità musulmane. Alla luce delle condizioni inumane e degradante che caratterizza i talibè, molti bambini tentano di scappare da questa forma di schiavitù moderna, cercando protezione e sicurezza. In questo quadro, nel quale Malitese ha deciso di intervenire con partner come VIS, come Coopi, come investire sul futuro, protezione, formazione, occupazione per i migranti di ritorno, i migranti potenziali e i migranti minori non accompagnati in Senegal, Gambia e Guinea-Bissau. Bam! E questo, ci sono alcune foto sul sito di Malitese. È molto, molto interessante, perché io ho sempre lavorato per queste cause senza conoscerle così a fondo come stanno facendo ora Damiano e Manuela. E pagherei bei soldini per essere là, ma non me lo posso permettere in questo esatto istante della mia vita. Però fa niente, è come se ci fossi. Damiano è un pezzo di me, lo considero, quindi va benissimo. Ci sentiamo l'ultimo pezzo, poi ci dobbiamo lasciare perché sono stancuccio, ragazzi. E vi ringrazio per essere stati all'ascolto, ringrazio Damiano e Manuela, che sentiremo nei prossimi giorni, nei giorni a seguire. E non state troppo sui social come me, ma godetevi la vita e pensate anche al prossimo. chiudiamo con Social Dilemma di Bestierare. Elio Germano al microfono. Ciao ragazzi. Dimmi come devo parlare, dimmi cosa devo pensare, dimmi se vende, dimmi se rende bene o se prende male, dimmi se è sbagliato o normale, dimmi se è legale o illegale, quello fa like, quello fa strano, ma dimmi chi sei, chi siamo. E mo basta coi VIP che se sentono la verità in tasca e catechizzano l'umanità. La star che dice la sua su Instagram e poi casca a vendersi la faccia per pubblicità. Celebrità in trip da Remida, notorietà, unica chance della vita. Capi ultra del bla bla a mitra, fanno da guida, opinion leader sui server, storyteller che dai a ride, best seller, so i meglio seller, se no Peter, passerelle dei Rockefeller, disinibite, fanno trend, fanno un brand delle loro vite. Ma qua la qualità si decide a sfide sulla quantità di click e fai una realtà, cifre, è verità se il tuo clan condivide, se no è fake, se non fanno like non sono mai esistite. Dimmi come devo parlare, dimmi cosa devo pensare, dimmi se vende, dimmi se rende bene o se prende male, dimmi se è sbagliato o normale, dimmi se è legale o illegale, quello fa like, quello fa strano, ma dimmi chi sei, chi siamo. Posizione universale, hanno 2000 passa, fame di giudizio personale, non basta, il giudizio funzionale conta, chi si fa insultare sfonda, chi si fa più male, testa bassa finché passa l'onda, questa farsa mi circonda, cercano quel cane che abbaiando agonia, Cerbero, carne fresca fa da esca, loro stessi fanno ressa, pur di esporsi all'agonia si ucciderebbero. Non è Bologna nel 77, non c'è Marina ma imponderabili ancora effetti sulla gente, lei più le nudi all'entrata, fermi sull'uscio della porta, strusci i loro corpi e non procedi per la mostra, morbosa accelerazione di frequenze, ragazzini in posa marchiati a fuoco nelle coscienze, sintomi di un virus, quali influencer, quando brucia sulla pelle restano le conseguenze. Dimmi come devo parlare, dimmi cosa devo pensare, dimmi se vende, dimmi se rende bene o se prende male, dimmi se è sbagliato o normale. Sei chi siamo? Evviva l'Italia che ride, in faccia all'Italia che vive, con mille lire, con mille mire, sull'avvenire, a farsi follower dalle Maldive.